no imparare, la fantasia non si impara, la fantasia esce. Senza fantasia rimbambisci, finisce che ti muovi a vuoto come fish, ti fai più flash di un milione di foto su un campo da shish, simpaticamente puro come un fiore di loto, sicuramente trash oscuro, la tua anima è un veto bilish. Scordinati in delirio, messi in mezzo al mangia mangia, metti il collino nel culo lì dove è la frangia, l'impostazione di un chiuso si para o si arrangia, la pompificazione come repertorio dopo mezzo tiro da un piniello di ganja, mettici pure che non gliela fai più, di base stai a pezzi, lo so io e lo sai tu, il risultato è quel che è, il cielo è sempre più blu, sto sintonizzato sul 3, tu piace rock come a Pelù. Mi parli di hip hop, mi sa che la succhi in circolo, guardi troppa tv, giochi all'oracolo nel web, da dietro una room, giovane testicolo, devi fare ancora molta pupù. Non ho imparato, la fantasia non si impara. La fantasia esce. Vediamo cosa tira fuori. Credi di poterlo fare? Cosa? Una telefonata al giorno. Non preoccuparti se non capisci. È un problema nostro. E mi paghereste per questo? Sicuro come la morte.